Prova, prova. Funziona il microfono, posso parlare? Allora parla. Mi chiamo Nardiello Teresa e sono la donna delle pulizie della Green Life Italia. Sì, la Green Life Italia. Proprio quella del dentifricio, alito fresco, sorriso sicuro, denti lucenti anche al buio. Che posto ci pensi? Con rispetto parlando, non è possibile fare lucentezza dentale al buio, no? Ma comunque, Colacci Luciana, l'ho conosciuta 2 anni fa, quando è stata assunta. E a parte questa storia della pistola, non aveva mai dato segni di squilibrio. Quella sera però era fuori di sé. Le si reggeva negli occhi. Quando dico fermi, dove sta fermi, capito? Io la faccio saltare a st'ufficio! Perché la gente, quando la piate in giro, arriva al punto che sbrocca! E io non la faccio più, capito? Capito? E ma quanti anni so che mi piate in giro, eh? Beh, ma siete un po' troppo allargati, ora allora dovete stare zitti! Zitti! Muti dove sta! Che adesso parlo solo io! Ma sono diventata cattiva pure io! Io manco capace che faccio un macello, eh! Io faccio un macello! Ma è capace che... Fermo! Fermo che... Te sputo! Se una se lo dice da sola, ad alta voce, davanti a tutti, che cattiva! E perché poi tanto cattiva non è. E a Luciana tutto se ci poteva dire, tranne che era cattiva. Quella è sempre stata una brava ragazza. Certo, quando una donna aspetta, soprattutto il primo, e sembra un po' nervosa, ma è normale, eh? Ti senti tutto un peso? Hai la nausea, la voglia di cocomero, magari d'inverno, di calderoste, magari d'estate, e così, eh. Lei ormai era incinta e aveva un pancione. Aveva un pancione tanto, eh? Che infatti tutti quanti noi dicevamo che era maschietto, perché quando il maschio si vede, c'ha la panza pizzuta. Vederla in versione pistolera era un fatto, come si dice, era un fatto scioccante. Io subito ho pensato, ma che stai facendo? Che c'hai la creatura dentro? Pazza! E quella il bambino è come una spugna, eh? Se sei triste... Lui è triste. Se sei allegra, allora lui se la ride. E puta caso che muori. E quello muore. Anche se alla Grilla F Italia, con rispetto parlando, se muore qualcuno non se ne importano proprio. Specialmente l'amministratrice delegata della società che si chiama Liverani Carola. Pensare è una mia conterranea. No, ma quella è istruita, è una donna di successo, parla proprio come gli uomini, ma quello perché ha studiato. Anche il marito è uno importante, anche lui è amministratore delegato di... Vabbè, ma non mi ricordo, comunque di un'altra cosa grossa. Ma tanto si sa che questi si sposano sempre tra di loro, no? Come principe e principesse. Però si vedono poco, sì, perché lui sta sempre in giro per il mondo. Lei lavora dalla mattina alla sera, E ai figli, chi ci pensa? Do cameriere peruviana. Ma qui qualcuno ha mai parlato del licenziamento? E non mi pare proprio, ve lo state inventando voi. Voi del sindacato adesso non mi mettete in bocca cose che io non ho mai detto. Io non ho mai usato la parola licenziamento. Non ci saranno licenziamenti, lo conoscete l'italiano? Io ho solo detto che non verranno rinnovati i contratti a termine. È molto diverso. È molto diverso. Allora acquistatevi un vocabolario e vedrete che come per incanto capirete la differenza. Allora, ve lo ripeto, la Green Life Italia avrà solo una piccola, quanto inevitabile, riduzione della forza lavoro da quantificare in circa, quante sono? 160 unità. Dobbiamo agire così per tutelare gli interessi dell'azienda e degli altri 473 dipendenti che ci lavorano. O forse il sindacato preferisce che chiudiamo del tutto, eh? Ma voi leggete i giornali. C'è crisi, le aziende chiudono, io non ci dormo la notte per cercare una soluzione. Ma che ci posso fare se da Denver mi chiedono utili più costanti, eh? Ma vogliamo aspettare che questi americani se ne vadano ad investire a Bucarest, a Cracovia, dove la manodopera costa la metà, perché così è, eh? Signore, noi siamo una multinazionale, dobbiamo guardare al mercato. Ma se non abbiamo entrate, ma che dobbiamo fare? La beneficenza? Ah sì? Ah sì? Allora le spiego io come stanno le cose. Oltretutto noi qui in Italia abbiamo la legislazione persecutoria nei confronti della grande impresa. Sì signore, abbiamo la guardia di finanza che ci viene a fare il buongiorno tutte le mattine. Almeno ci portassero cornetto e cappuccino. E poi scusate, proprio voi del sindacato, se solo uno di noi si azzarda a dare del tu a un operaio ci fate vertenza. Ma se permettete so benissimo di cosa sto parlando, non è che sono qui per grazia ricevuta, eh. E a suo tempo mi sono preoccupata di prendermi un bel master in economy business alla Carlisle di New York. Scusate se è poco. Voi ce l'avete la laurea? No, perché a me ancora non è chiaro come si diventa sindacalista. Eh? Che si fa? Si compra un gratta e vince in tabaccheria? A me, do solito, mi fanno lavorare la sera per non disturbare. Attacco alle 16 e finisco alle 22. Mi faccio tutti e 8 i piani del commerciale, il magazzino e la catena di montaggio che sta già a piano terra. Tutta la sera... Da tanti anni vedo operai, impiegati, dirigenti che sono tornati a casa, che io ci auguro buonanotte e loro mi rispondono buon lavoro Teresa. Rimango sola in quell'enorme edificio che mi sento come un dentino nella bocca di un dinosauro gigantissimo. E così come sento. No, però non sono proprio sola, eh. No, certamente, ci sono anche i due guardiani notturni, che io proprio, con rispetto parlando, non è che provo tanta simpatia per loro, eh. Nel senso che io lavoro sodo e guadagno pure poco, loro invece non fanno mai niente, se ne stanno tutto il tempo in guardiola a mangiare. A ascoltare quelle trasmissioni sportive alla radio con quelli che si lamentano, il rigore, il fuorigioco, e la Roma, e la Juve, e l'arbitro è cornuta, allenatori venduti, e tengono la faccia come culo. Scusate. Io chiedo immensamente perdono per questo termine che ho usato, scusate. E che sono esasperata con questo fatto del calcio, Perché anche mio marito alla domenica sembra che si vuole vedere queste partite. Mentre invece a me mi piacerebbe di guardarmi, che ne so, la domenica in. Così non penso a niente. Comunque, i due guardiani sono assai tamarri. E con rispetto parlando, trogloditi e cafoni. Il più giovane, Ruggero, è magro e sta sempre zitto che pare che ce ne mangiata la lingua. L'altro vale in cerca la mia età, sì. No, mi sa che lui 60 anni li ha già finiti, sì. È un tipo di uomo un po'... Bombolone, un po'... Grassoccio, un po'... Sciattone, Ma sicuramente è più gentile. Si chiama Sebastiani Bruno. E in fondo... è una brava persona. Roma, stazione Termini, San Vito, mezzogiorno e mezza. Dice risposta incompleta, ripetere prego. Mezzogiorno e mezzo? Dai, come dici Ruggero? Ah beh certo, non ci sta a pensare. 12:30. No, niente, no. gli sta bene manco questa. No. Niente, siamo spiacenti. Niente. Prenotazione non effettuata. Trenitalia da merda! Oh, sai che c'è Trenitalia? Ma lo sai che c'è per me? Ci vado a macchina al paese, che faccio prima? Oh. Oddio, potete, se non grande grosso di 60 anni, devi stare a tribolà presso un disco. Oh. Ma perché se devo prenotare un treno, devo parlare con una rumena elettronica? Dico, ma metteteci in cristiano vero, no? Vabbè, va. Ma che volemo fare? Ti sono fatto l'8 e mezza. Ceniamo. Arugge, ma perché ti porti sempre questo panca col tonno? Ma te lo danno quando fa la dieta il tonno, no? Te danno il petto di pollo, il riso bollito, una mela e il tonno. Dico, ma se non stai a dieta, dico, ma portate un panino più borgare. Fai colare un po' di maionese sulla manica, fatta una medaglia di ketchup sulla divisa ogni tanto. Ruggero, tira fuori l'aborigeno che in te! A me, per esempio, so tanti anni che mia moglie mi prepara il panino con la frittata. Frittata semplice, frittata con i peperoni, frittata con le zucchine, frittata se la può fare le gambe, frittata con gli asparagi, tutti i tipi di frittata. Io non mi devo chiedere che cosa ci sta nel mio panino. Io casomai mi chiedo che cosa ci avrà messo mia moglie nella frittata. A me, Ruggero, se mi chiedono che cos'è la notte, io gli rispondo tre cose. Divisa, Guardiola e frittata. E non mi dite fermati! Io sono carmissima! E il prossimo che mi dice carmati, io sparo, vabbè! Di sicuro non mi faccio dare ordini da voi! A me i piedi in testa non mi mette nessuno, capito? Io, quando che facevo la cameriera, che il principale mio si è permesso di mettermi una mano sul culo, io non ho abbozzato come tutte quelle altre. Io gli ho imbruttito. E l'ho guardato dritto nell'occhio. E gli ho detto, non ci riprova mai più. E gli ho dato del tu, mica del lei. E lui zitto. No, ma comunque non ci si può andare al bagno. Beh, se te scappa la fai sotto, non mi frega niente. Ma intanto legatevi con la corda, forza! Se lega a lei! E lei lega a lui! E te! Te legate da sola! Famo affidasse! Luciana è così? Se si mette in testa una cosa, poi è cocciuta, c'è la capa tosta. L'anno scorso, per esempio, si era messa in testa ad avere un figlio, anche se il marito, Stefano, non era tanto d'accordo. Lui ci diceva sempre che a malapena arrivavano a fine mese in due e figuriamoci con un po' pande. Allora lui ci rispondeva che dove si mangia in due si mangia pure in tre. Allora lui ci rispondeva, ah, sì, e se sono due gemelli? Ma questa doveva essere una battuta, credo, no? Solo che Luciana non rideva, Stefano, quello è così, È un bravo ragazzo, è simpatico, fa battute, però studiare non ha voluto studiare. E di voglia di lavorare non ce n'ha mai avuta tanta, No, per carità, Lui la vuole tanto bene a Luciana, tantissimo. Solo che, dico io, con l'amore e basta. Non se ci mangia? Certe volte ho trovato Luciana che cantava le canzoni alla creatura, dentro alla pancia. Sceglieva tutte canzoni calme calme, serene, così il bambino se ne stava quieto quieto. Inventate qualcosa, perché qui a malapena arriviamo a fine mese. Fatele venire ste mestruazioni. capitava un ragazzino me lo sarei tenuta. Perché non ce lo posso avere un ragazzino, eh? E chi so io? La figlia della serva? Lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Mo sta a vedere che il problema so io. Ma che te pensi che un ragazzino per casa non mi piacerebbe a me? Ma poi scusa, fate conto che sono due gemelli. Ma che gli davo da mangiare? Lo darò a Gesù e Maria, fai la nanna e così sia. Volante 19 da doppia vela. Volante 19 da doppia vela. Allora, portatemi in zona al Stadio Olimpico per controlli, in quanto contattati da un utente telefonicamente sembra che ci siano dei problemi con alcuni transessuali. D'accordo, doppia vela, ti portiamo subito. In un minuto siamo lì. Capisci, collega, cosa ti dicevo? Il problema è che loro pensano questa qui è una donnicciola e quindi non conta. Cioè, nonostante vi abbia indosso la divisa della polizia e sia alta 1,85 m, non incuto timore agli uomini, un paradosso. Allora, fondamentalmente, per farti rispettare, diventi più cattiva. Pretendi più rispetto. Se serve, molli pure qualche cartone. E con questo non voglio giustificarmi perché quello che ho fatto è brutto. È brutto! Non si mollano pestoni così gratuitamente. Però devi ammettere che quel pappone rumeno ha esagerato, Cos'è sta storia che mi dici davanti a tutti? Se lavorassi per me guadagneresti meglio. Ma smettila! Smargiasso! Rumeno! Questo su dalle mie parti non succedeva, Capirai, siamo 350 anime. C'era giusto qualche zuffa al bar ogni tanto. Qualche poveraccio devoto alla grappa che beveva un ombretto di troppo. Oppure qualche contravvenzione se mollavano il trattore sulla carreggiata per andare a fare i bisogni nel campo. Così così. Collega, la verità, io non ho mai dovuto sparare un colpo di pistola. Oh, per carità, meglio così. Meglio così. Solo che sul mio paese era tutto troppo tranquillo. Mi annoiavo molto. Io sono orgogliosa di indossare la divisa della polizia e voglio essere utile per il cittadino. Su al mio paese mi sentivo inutile. Qui a Roma, invece, ringraziando il buon Dio, il criminale non manca. Hai sempre di che lavorare. Ma prendi per esempio le prostitute e i transessuali, no? Ma quelli, ma mica hanno scelto di battere il marciapiede. Sai che quelli sono costretti. Sai che spesso provengono da situazioni di povertà incredibile. Bisogna comprendere ed essere misericordiosi. Vedrai che il buon Dio ce ne renderà merito. Guarda, la vedi quella lì, per esempio? Quella ragazza, quella di colore. Io quella la conosco. Sì, l'ho già fermata un paio di volte. Quella si chiama Manuela. Guarda là che corpo statuario, che forma perfette. Bella ragazza, Ti piace? Ah, davvero? Parecchio? È un uomo! Dai amore, dai amore, dai amore, andiamo a casa mia, facciamo tutto con calma. Ti faccio tutto un massaggino particolare, eh? Sono una jacuzzi de carne! Dai, amore, dai, che se fai il bravo ti faccio conoscere anche il mostro del Loch Ness. Come? 15 euro. 15 euro, vai con quella sfortunata di tua sorella, bello. Vai. Badare che non siamo al mercato qui, eh. Vai, vai, vai che c'è pure brutto. Tornatene a casa, eh. Tornatene a casa da tua moglie. Che ci sono i bambini che ti aspettano, che vogliono il papà. Solo che il papà è per strada che vuole andare con le puttane travestiti per 15 euro. Vai! Basta divertire! Vai a cambiare la padella a tua suocera! Mostro pelato che c'hai pure la pancia! Polizia de merda! Che cosa volete? No, no, no, no, non sto facendo niente. No, ero qui che parlavo con il mio caro amico, sì. No, non ce li ho i documenti. Perché ero solo uscita a fare una passeggiata, perché non posso. Ma perché devo salire nella macchina della polizia? Non sto facendo niente di male. Ma io non voglio salire nella macchina della polizia! E va bene, salgo. Però non facciamo come al solito, eh. Questa sera non si fa credito. Cinque, sei, sette, otto. Dun, dun, dun, dun. Una rotonda su un mare. Piano, piano, a tempo, a tempo. Dun, dun, dun, dun. Il nostro disco suona. Piano, piano, a tempo, a tempo. Dun, dun, dun, dun. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me, amore mio, dimmi che sei, tu sei. Poi va avanti, il pezzo più bello è quando fa "It's the simple di con lui, o se rompiate qualcuno di me". Io ti penso sempre, sai, ti penso. Mamma mia, che fatica, ma ti ho fatto cantare la banda tutta, mamma mia. No, no, no, no, no, a me piace tanto cantare canzoni, tantissimo, tantissimo, perché a me le canzoni mi fanno gioia, eh? Però anche riflessione, eh? È vero, perché sempre le canzoni raccontano di qualche storia, di amore, di amicizia, è vero, eh? Infatti le canzoni sono una cosa seria, eh? Infatti a tempo vanno cantate, noi non diciamo, che andiamo? A tempo vanno fatte, piano piano, a tempo, è vero, perché sempre se ci fai caso, sempre nelle canzoni ci trovi sempre dentro una qualche verità, eh? Poi vabbè, ci sono quelle che sono proprio dei capolavori. Per esempio c'è questa che mi piace tantissimo, che è una poesia, secondo me, che fa così, fa. Sono l'elefante e non ci passo. Mi trascino lento il peso addosso. Questa è l'elefante e la farfalla, no? Che cosa ci parla questa canzone? Praticamente la storia di un amore impossibile, no? Perché ci sta lui che è innamorato di lei, che è, diciamo, è donna. Però è magra, è leggera, è leggiata, è farfalla, capito? Invece lui è un po' chiattone c'è un bottone, eh. Allora si sente un po' elefante, no, amore impossibile, capito? È una poesia proprio. Che poi secondo me questo è un testo biografico, perché infatti il cantante, Zarrillo, no, di corpo è magro, però tiene un faccione tanto, che secondo me da piccolo pigliavano in giro per quello che ha fatto la canzone sull'elefante c'è un bottone. Comunque tutte quante canzoni sempre ci danno significato, capito? Anche quelle che iniziano le capisci subito, dici ma che avrà voluto dire, forse non vuol dire niente. No, no, vuol dire, il significato sempre c'è, sempre c'è, sempre c'è lo trovi. Per esempio c'è questa che all'inizio non si capisce bene, è un po' difficile da capire che fa cosa si fa. Passerò 8 ore andare via. Con chi sta parlando lui? Con chi sta parlando lui? con chi sta parlando? Dice Passerotto, no? Allora uno pensa, cioè, non è che sta parlando, dice Passerotto, allora sta parlando con un pennuto. No, quello sta parlando con una femmina, con la fidanzata, con la moglie, come la chiama? La chiama Passerotto. Sì, perché quello sono i nomi che uno si dà in confidenza, nell'intimità, in amore. Tutto quando lo fanno, quello si chiama Passerotto, Cioccolatino, è normale, lo fanno tutte quante. Anche mio marito da giovane, sempre mi ha chiamata Fagocceggio. Perché sempre sono stata un po' forte da fianco, no? Ah, Fagottetto. Però mi chiamava Fagottetto soltanto quando ci girava bene. Vatta, mo che ci penso, le ultime due volte che mi ha chiamato così sono nati Tonino e Maria Paola. Però capito che voglio dire? Cioè, tutte quante canzoni sempre ce ne hanno un significato, tutte, in matematica. Anche queste giovani moderne, tutte sempre ce l'hanno. Ma che mi viene in mente? Mai cos'è, ne andate e non ritorna più. Quello che cos'è? Un amore stroncato sul nascere. Vedi, poi anche questo, aspetta. Perdona se quel che ho fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, sono una rosa. Questo, che cosa? Che cosa ci vuole comunicare Tiziano Ferro con questa canzone? Che lui proprio sentiva l'esigenza di chiedere perdono, Perdono, di chiedere scusa, di chiedere molte volte, lo chiedo una canzone, molte volte, moltissime volte, a sfinimento proprio. Però è chiaro il significato, è vero, perché lo dice anche il titolo, perdono. Però ho capito, tutte quante, che ti posso dire, anche quelle più anziane, quelle più antiche, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, la verità mi fa male, lo so quello che cos'è, una donna che pretende il rispetto, tutte ce l'hanno significato, tutte, nato ai bordi di periferia, quello che cos'è, disagio giovanile, si percepisce, vero, tutte, uno su mille ce la fa, ma quando è dura la salita, perché la vita non è una passeggiata, è vero, tutte, dam, davo dam, davo dam, davo davo davo dam. Davo dam? Davo dam? Forse quella ignoranza mia. Però credo che proprio, sono proprio quasi sicuramente che Davudan proprio non vuol dire niente, no? Però che non le c'è a cantare canzoni, no? E poi a un certo volta mi sono presa certe cazziatoni proprio che cantavo in corridoio e mi dimenavo in breve a balletti scanzonati. Una volta, addirittura, l'amministratrice delegata della società, dottoressa Liverani, ha minacciato di licenziarmi, Teresa! Per colpa tua, vado dallo psicologo! Smettila di cantare! Smettila di dimenarti! Allora mi sono detta, mi domeno, me la gente. Non mi domeno, non me la gente. Non mi domeno. Io però le ho detto che secondo me lei, con rispetto parlando, era nervosa perché lavorava troppo. Infatti era l'unica che rimaneva sempre in ufficio fino a dopo l'orario di chiusura, ma tardi, anche fino alle 10, alle 11. Che cosa facesse dentro a quell'ufficio non lo so, però secondo me nascondeva dei segreti. Allora, signorina Graziosi, da questo momento in poi sono in videoconferenza con Denver. Non voglio ricevere nessuna telefonata, sono stata chiara? Ciao. Sono io, la tua maledetta primavera. Ma mi spieghi come mai hai scelto un nickname così fantasioso come prepotenza pelvica? Che cosa c'hai sotto? Cosa? Mamma mia, mi fa sudare questo pazzo. Prepotenza pelvica. Chiedimi qualunque cosa e io la farò per te. Come? Voglio che ti spogli. Voglio immaginarti nuda come una puledra in calore. Denudati, bagasce. Va bene, prepotenza. Lo farò per te. Ma solo la parte di sotto, però. Che se entra mia segretaria, che figura ci faccio? Mi sono già sfilata la gonna. E adesso mi tolgo anche le mutandine. Oddio! Signorina Graziosi, ma non si bussa più? Scusi, scusi, ma sono prevenuti a dire scusi, Ma c'è bisogno di entrare come uno tsunami e devastare la mia concentrazione? Che cosa guarda? Ebbene, mi sono spogliata perché avevo caldo, va bene? Anzi, faccio una cosa, abbassi il riscaldamento perché io boccheggio. E sono costretta a spogliarmi per non sudare. Sì, solo la parte di sotto, sì. Sudo particolarmente sugli stinchi, va bene? Ma poi mi scusi, ma pensi a lei che si pettina stranamente senza cognizione di causa? Signora Graziosi, glielo dico chiaro e tondo una volta per tutte. Signora Graziosi, lei ha i capelli di Moira Orfei. Alla riunione con Confindustria settimana scorsa sembrava una domatrice di leoni. Ma si faccia un taglietto cortino tipo Lisa Stansfield. O al limite un'acconciatura da fintamente indaffarata alla Lily Gruber. Però per favore, evitiamo questa cucuma in testa stile moglie di Homer Simpson. Perché veramente comincia a procurarmi seri imbarazzi. Adesso, cortesemente, se ne vada. E chiuda la porta! E per favore, si riduca la cucuma! C'è una persona che sta lavorando, deve essere continuamente interrotta dalla segretaria. Senza un briciolo, devo proprio dire un rispetto. Mi mostro con sta cucuma in testa! Senza un briciolo di dignità e di decoro! Caro Satanasso in calore, se hai voglia di sentire la mia voce, chiamami subito al 337-477. Sarò la tua sgualdrina. Volevi sapere perché sono cazzata? Perché così non è vita! Non ha vita! Mio padre, lavorava per i traslochi. Si chiamava Mario. È appena nata, mi ha portato dentro la bandiera dalla Lazio. Quando è morto mio padre, non è che c'aveva la pensione o l'assicurazione, perché lavorava a nero, come tutti quelli del quartiere nostro. Mi ha lasciato 500.000 e una 127 verde, che quando arrivavo sotto casa mi dicevano «Eccola, è arrivata Luciana per testa verde!» Mia madre ha 70 anni e sta ancora a servizio. Che mai chiamano collaboratrice domestica, ma per tutti rimane sempre a sguattere. E siccome che nella vita uno parla soprattutto del lavoro che fa, gli avvocati parlano di processi, i medici di malattie. Beh, mia madre parla solo di stracci e dei saponi. E forse è per questo che sono venuta su una ragazzetta pulita! Io? I due guardiani notturni da Real Life, Bruno e Ruggero, proprio non riesco a sopportarli, anche e soprattutto a livello, come si dice, olfattivo. Ora, io non dico che uno debba farsi la doccia proprio tutti i giorni per cantare, però io credo che quella volta a settimana sia rispettoso per le altre persone, che altrimenti svengono. Quando entra nella guardiola di Bruno e Ruggero, stramazzi al suolo, ti senti come de morire. Ma te vorresti abbandonare alla morte così, senza discutere? C'è un odore come se trovi un cane morto in salotto. ma morto negli anni 70 però, Mortissimo! C'è una puzza di prossimo, di deodorante messo senza stato fatta la doccia, di sudore che sembosse stato dei camici. E non solo. Nella guardiola di Bruno e Ruggero vivono anche alcune frittate. Ormai parlano proprio col tonno di Frammezzini, ma si raccontano proprio le cose, secondo me. Ehi, che tipo di tonno eri tu da piccolo? Che cos'è esattamente una tonnara? Comunque, quella sera, in quella guardiola, è successa una cosa strana. Verso le 22 si è presentata Colacci Luciana con la lacrima agli occhi. Arugge, guarda un po' chi c'è sta là. Ma quella non è Colacci Luciana? È lei, vi? E mi hanno fatto un parere. E che c'è sta a fare qui a quest'ora? Quella vedrà che si è dimenticata qualche cosa, Buonasera, Luciana! Buonasera, bella! E come mai da ste parti? Ma perché piangi? Ma che tu piagni? Ma cammina! Vieni qua, cucciola, che t'hanno fatto? No! Luciana, ridammi la pistola, non fare scherzi che quella è carica, sa? E non scherzo, però stai scherzando, Ah, non stai scherzando? Ma che è successo, Luciana? Va bene. Va bene, alzo le mani, però tu state calma, State calma. Mamma, che t'ho preso, Lucio. Va bene, lo chiamo, però tu state buona. State buona, Lucia, state buona, per l'amor di Dio. Ruggero! Dice Luciana qui, se per cortesia gli può passare la tua pistola. Altrimenti, Lucia? Altrimenti dice che m'ammazza. Ti pregherei allora, viste le circostanze, di passare anche la tua pistola. Come, perché, Ruggè? Non c'è stata a chiedere perché, c'è stata a passare anche la tua pistola. E si buono, no? Che c'ho una figlia da sposare ancora io, No, Ruggero, non è uno scherzo! E ride? Che cazzo se ride? No, scusami, Lucia, che questo è un fregnone che ci ha avuto la disgrazia da lavorarci insieme, capito? Mannaggia la maglietta! Ruggero! Affacciati un attimo! Guarda che non c'ho proprio voglia di scherzare! Se proprio tu dovessi dire, io mo c'ho voglia che tu adesso con molta calma passi quella pistoletta tua maledetta e te stai buono da una parte. Ci arrivi col cervello o te lo devo spiegare a gesti? Un culo gli c'entra da sta noi. Ruggero, ma lo fai capire che mi stanno a puntare la pistola alla testa? Ruggero, eccoti qua finalmente. No, Ruggero. Abbassa quella pistola. No, Luciana, abbassala pure te. Luciana, abbassala pure te. E ci sto io in mezzo, eh! E mica potete giocare a mezzogiorno da fuoco con la vita dell'altro. Va bene, Luciana. Io sto fermo. Però tu state calma, State calma, Luciana, per l'amor di Dio. State calma. Ruggero. Maledetta la razza tua. Butta quella pistola! Dai! Volante 19 doppia vela, abbiamo verificato nessun problema con i culattoni, con i transessuali. Io e il mio collega procediamo con gli accertamenti. Va bene, volante 19, rimaniamo in contatto per eventuali sviluppi. Allora, bella, bello, come preferisci te. Mi dicevi che il tuo nome completo è Manuel Ramon Gonzalez, detta Manuela. Ascolta, io sono un po' in difficoltà, perché tu non hai permesso di soggiorno e neanche un documento qui appresso con te. Mi dici che questo è il tuo vero nome? Allora io ti credo, dai. Allora, sei nata a Bogotà il 7/8/1983? Ma sei giovanissima tu, Giovane e bella. Bello. Guarda, io ho 15 anni più di te e forse sono una donna che non ci bada poi troppo alle apparenze. Però credimi, credimi che tu hai un fisico da fare invidia a tutti, Uomini e donne, dai. A te il buon Dio ti ha proprio fatto il dono della bellezza. Va bene, dai. Per questa sera abbiamo deciso di chiudere un occhio, Ti lascio libera di esercitare. In fondo, lo sappiamo cos'è che siete voi, Voi siete un tolleratissimo sfogo sessuale al servizio della collettività. E questo, in un certo qual modo, vi fa onore. Dai, sono sicura che il Signore vi protegge anche voi. Ascolta, Manuel! Manuela! Siccome io alle 21:30, tra mezz'ora esatta, stacco dal turno. Giusto al tempo di portare il mio collega in centrale. Ma no, pensavo, magari torno qui a trovarti. Cosa se si fa una chiacchiera da donna? A donna? Che ne pensi? Pronto? Ah, sei tu. Prepotenza pelvica. O preferisci che ti chiami Prepo? Sì, sono io, la tua maledetta primavera. Madonna, che faccia strana che Prepo! No, cioè, sono un po' in imbarazzo, perché se mi consenti questo per me è proprio un colpo di testa che non mi rappresenta in toto. Come? Vuoi sapere il mio vero nome? No, ma non te... Ma figuriamoci se te lo dico. Ma non te lo dico il mio vero nome. Dici? Ma veramente lo vuoi sapere? E va bene. Allora te lo dico. Mi chiamo... Carola. È il tuo nome preferito? Ma dai! Ah, scommetto che lo dici a tutte. E tu? Che nome si nasconde dietro a prepotenza pelvica? No, scusa, io te l'ho detto il mio. No, io ti ho usato cortesia e ti ho detto il mio vero nome. Allora mi sembra carino che... No, mi sembra carino che anche tu adesso mi dica... No, è proprio una questione di buona educazione, bello! No, io ti ho detto il mio vero nome. Allora mi sembra carino che anche tu a questo punto... Come? Sigismondo? No, che delusa! È un nome come un altro, figuriamoci. È strano sentire le nostre voci. Dopo esserci scritti per giorni interi. È vero, Sigismondo? O preferisci che continui a chiamarti Prepo? Prepo Mondo, ti piace? Prepo, ascoltami, adesso ti faccio due domande. Tu rispondimi sinceramente. Voglio sapere esattamente quanti anni hai e che lavoro fai. Sì. No, no, ci sono ancora. Ci sono ancora. Senti, è che non è facile, eh. Un 65enne. Prete. Ma tu capisci, vero? Ma tu capisci la difficoltà? Ah, ma era uno scherzo? Era uno scherzo? Mamma mia, prego, ne sai una più del diavolo! Oddio, che succede? Che succede? Scusa, prego, adesso ti devo proprio lasciare, eh? Sì, ti devo lasciare! D'accordo, d'accordo! Sì, prego! Non lo so, non lo so! D'accordo, va bene, prego! Sì, prego! Sì, prego, sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sempre sia lodato! Mentre stavo pulendo il corridoio, ho sentito due botte di pistola. Mi è preso un colpo secco e per lo spavento mi sono data una botta sottalmente che la scopa. Che mi sono morsicata la lingua che ho cominciato a sanguinare come una pazza, con sbrotti di sangue sul camice. Col piede poi ho urtato il secchio dell'acqua sporca che si è rovesciato tutto per le scale, procurando come una cascata saponata. Che la segretaria, la signorina Graziosi, è uscita dal suo ufficio, è scivolata, ha sforbiciato in aria, ha fatto un gap tombo che ci si è inzippata a cucuma dei capelli nel vano ascensore. Il quale ascensore si è chiuso ed è ripartito scotennando la povera signorina Graziosi. Che in pratica io in quel momento ho scoperto che portava la parrucca. Lei era mortificata per via della calvizie ingipiente che era stata svergognata nei miei confronti. Io l'ho subito rassicurata che non l'avrei detto a nessuno che lei era pelata. E ci ho data la prima cosa che ho trovato intanto per farci mettere in testa. Il mojo vileda. Ci è venuta una capa rasta. Pareva Bob Marley. In quel momento è uscita dal suo ufficio la dottoressa Liberani in mutande. Io non lo so perché, sopra la vestita e sotto spogliata. Ma la gente più è ricca e più fa stravaganze. Comunque, la situazione secondo me era abbastanza preoccupante. Una caca parasta, l'altra smutandata. E io piena di sangue che parevo un bambino. Automaticamente quella dottoressa Liberani quella che cosa è andata a pensare? Che io avevo preso a morsi la testa della povera signorina Graziosa per strapparci via tutto, ma che effettivamente non c'era più. Che gli spari provenissero da me, che secondo me, non lo so, ero come impazzita nella mia furia mozzicatrice. A povera signorina Graziosa, caparasta. Per mascherare l'imbarazzo ha anche provato a cantare No Woman No Cry. Ma naturalmente quella, a dottoressa Leverani, quella non si è convinta. Dopo pochi minuti però abbiamo capito che quegli spari provenivano dal piano terra. Au! Ma che avete sparato per davvero? Oh, meno male che siete due pippe a sparare. Come dovete spiegare come avete fatto a pigliare il lampadario e la finestra di retro? Perché per me rimane un mistero tipo il triangolo dei Bermuda. Mo, per quanto riguarda te, Lucia, non dico che mi aspettavo, però è normale che sbagli a sparare. No, mica sei una pistolera. Però te, Lucia... No... No, Ruggero, Cristo santo, apri gli occhi! Io volevo fare scuola alberghiera, solo che non ce l'avevo vicino casa. Vicino casa c'avevo ragioneria. Allora, mio padre mi ha detto che dovevo fare ragioneria. Così andavo a scuola a piedi e risparmiavamo 36.000 lire al mese dalla tessera dell'autobus, va bene? Mi sono presa il diploma e ho cominciato a lavorare. Prima a nero e poi sono entrata nel delirio di sti contratti a termine. E ho cominciato a capire come funzionavano le cose. E ho capito che un posto fisso io non ce l'avrei avuto mai. Nel frattempo ho conosciuto un bravo ragazzo, Stefano. Ci siamo innamorati e volevamo andare a vivere insieme, solo che in affitto non ce lo potevamo permettere. E figuravamo su mutuo, perché che togli la banca come garanzia? Ora a mia madre vive l'idea che potrebbe andare a servizio visto da una signora dei Parioli, che così ce lascia a casa sua, che l'affitto è ancora basso, e male che basso lo stecchiamo in tre, che pure lei ci dà una mano. Solo che la signora dei Parioli, mia madre, non gli conviene più, perché la signora c'ha una bielorussa e gli costa a metà. Allora, con tutta buona volontà, mia madre non gli fa aiutarci. Però io e Stefano si sposiamo lo stesso e andiamo a vivere in un monolocale in affitto a Guidonia, fuori Roma, a 350 euro al mese. Che per voi forse non so niente, ma per me non mi date quello che guadagno. Poi un bel giorno ho compiuto 33 anni, no? E mi sono detto, mamma mia, da Maurizio che crescevo in Cristo, no? Io c'ho ancora tutta la vita davanti. Poi mi hanno appena fatto un contratto a termine a Green Life e mi hanno promesso che sì, lavoro sodo, non baccaio sullo stipendio da fame, non pretendo il buoni pasto e mi fermo per paio d'ore in più al giorno senza che mi pagano straordinario. Beh, dice che sicuramente mi rinnovano il contratto e pare che l'anno dopo mi assumono un pianta stabile. E io faccio tutto. Mi sacrifico. Mi spacco la schiena per 700 euro al mese. In più sorrido sempre, che manco mi era stato richiesto. Però faccio un errore solo, uno solo. In un momento di estrema gioia e d'allegria, decido di mettere al mondo una creatura. E invece di ricevere una macca sulla spalla, ma vengono a dire che non mi rinnovano il contratto. Che le Green Life non hanno più bisogno di me. E mo dicono che sono il settimo mese di gravidanza. Con mio marito che sta a far muratore in Germania e mia madre che non gliela fa più manco a tenersi dritta la schiena. E beh, che dite? Come vado avanti, moglie, secondo voi, eh? Che faccio? Mi vendo a 127! Ce ne stanno quei bambini, però, eh? Patrick, Jason, Brad, Donovan, Montgomery. Lo darò alla Befana. Montgomery, la paura. Montgomery Colacci. Sono bene. Che lo tiene una settimana. Stefano, io non voglio che parti per la Germania, voglio che stai qui vicino a me. Scusa, Lucia. Ho potuto chiamare che mi era appennicato. Oggi al cantiere ci hanno massacrato sti crocchi infami. Lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Amore, pronto amore, mi sento male, c'è la nausea, che devo fare? Mi viene da vomitare, mi gira la testa. Amore, tu non ci stai, come faccio? Sbrigati a tornare che così divento matta. Lo darò a Gesù e Maria. Vai la e così stia. A costa da qua, eh? Qui a sinistra, qui amore, qui, stop, qui, qui, qui, dove dice Green Life Italia. Sì, ci vengo sempre qua, ma ti dico che lo conosco questo posto, oh? Ci sono quasi affezionata a questo parcheggio. Ogni volta che mi metto a pecorina, leggo la scritta alito fresco, sono visto sicuro. Non è meraviglioso. Allora, perché mi hai voluto conoscere, bella? Sai, non me lo aspettavo che un poliziotto femmina mi caricava in macchina, eh? Certi tuoi colleghi maschietti lo fanno spesso. C'è sta uno che si fa anche ammanettare. Ma tu che cos'è che vuoi esattamente da me? Vuoi provare un'esperienza diversa? Vuoi assaggiare il mio peso spada? No, no, perché ridà? Perché? Perché è peccato? Poi piace Gesù. Ma vuoi solo parlare, scusami. Solo parlare, e le cose? Di me? Oh, la mia storia. Ah, ah sì. Allora, dunque, vediamo un po'. Allora, dunque, sì. In Colombia mi morivo de fame. Qui invece mi vesto Dolce Gabbana. Finito. Guarda questi sandali, che amore. Tu invece che scarpe porti? Fammi vedere. Che scarpe porti? Ah, le balle verde. Quelle che si comprano le becche in farmacia. Sì, amore. Ci sono tante persone come te che mi vogliono parlare. Vogliono tutti sempre solo parlare, sapere la mia storia, come no? Poi però, guarda caso, si finisce sempre a quattro zampe. O io o loro. Ma che domande fai, scusami? Claro che non mi piace fare la puttana! Tu cosa credi che quando ero bambino io sognavo di stare per la strada? Io sognavo di essere una donna. Bellissima. Sì, certo, ci sono quasi riuscita, ma non è stato facile diventare Manuela. Ancora adesso Manuel c'è. Io mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio. Io sono Manuel. Allora mi trucco, mi metto alla base, piano piano. Manuel. E poi gli occhi, l'ombretto. Manuel. Poi però, con un colpo del rosetto, arriva Manuela. Adesso invece certe volte mi sogno che ballo una cumbia lenta, lenta con Antonio Banderas. Che lui lascia quella vecchia della moglie e si mette con me. Hai visto, amore, che anche io faccio i sogni, che tenerezza. E comunque adesso sbrigate, dai, che non c'è tempo da perdere. Forza, forza, apri le cosce che ti faccio assaggiare il tirannosauro. No, no, non voglio. No, ma io non ti ho capito, te. Che cos'è che sei tu esattamente? Cosa? Lesbica? Cosa? No, no, ti sei offesa, ma non ti volevo offendere. Guarda che non c'è niente di male, amore, sai. E comunque tu mi devi pagare. Io i soldi li voglio lo stesso. Perché tu sei donna. Poliziotta. Ma sempre cliente. Cosa c'ho scritto in fronte io? Gioconda! No, no, no, no! Io non voglio fare del sesso mercenario, no! Io provo anzi una grande ammirazione e capisco che deve essere stato difficile. Sono curiosa, ecco. Ma per esempio, con te ti vengono solo gli invertiti o anche i regolari? Anche i regolari. E con i regolari fai la donna? Cioè, voglio dire, ti nascondi il cosone? Ah, lo vogliono vedere tutti, eh? Anche i regolari? Beh, allora non sono tanto regolari, dai! Ma dici, un po' più regolari gli invertiti? Ma sarò. Io le invidio quelle come te. Vorrei tanto anch'io alle volte trasgredire e abbandonarmi, però non riesco, non riesco, lo trovo parecchio difficile. Una volta al paese il figlio del fattore di mio padre, il Zattarin, mi ha portato in macchina a guardare le stelle. Eravamo soli, io e lui, intorno c'erano solo i campi in fiore. Mi ricordo che nell'autoradio aveva su una cassetta del Vasco Rossi. Verso mezzanotte ho incominciato a palparmi, mi infilava le mani dappertutto, sotto al vestito. Poi mi prendeva le mie mani e se le metteva addosso a lui, no? Però non mi ha dato neanche un bacio. Allora ho Mi è piaciuto tanto. E gli ho dato un cartone sull'occhio, che ancora se lo ricordo. Io non credo che ho fatto peccato quella volta, perché io proprio non volevo fare quella roba là. Però ci ho ripensato per tanti anni alla Zatarin. Forse se faceva più piano, se era più gentile, se mi dava almeno un bacino, dai, magari poteva essere un bel ricordo. Buon Dio! Ma questi sono colpi d'arma da fuoco, eh! Stai calma, sono armata, ti proteggo io! Provengono dalla Green Life Italia! Guarda cosa faccio adesso! Devo intervenire! È il mio mestiere, l'ho scelto io! Tu, sta ferma qui e non ti muovere! Cristo santo, Ruggero, apri gli occhi! Apri gli occhi, Ruggero, apri gli occhi! Apri gli occhi, Ruggero! Ruggero! Ruggero! A Ruggero! A Ruggero! Ma amiche. Ma è solo svenuto sto cacasotto. Ah, guarda, Ruggè, con te sto proprio al sicuro, eh. Se tante volte dovessero venire i ladri, posso sempre contare su di te, sulla tua mira da cecchino, e soprattutto sul tuo coraggio da leone. Ruggero, tu non solo sei un basso dalla codardia, ma c'hai pure dentro di te un grosso mistero da spiegarci. Perché mira a una cristiana che sta davanti a te, vabbè, davanti a te, facile, e colpì il lampadario che sta sopra la testa. Secondo me è come tirà un calcio di rigore in fallo laterale. Comunque, l'importante è che non si è fatto male nessuno. E adesso che anche Luciana si è calmata, ma vedo che non si è calmata Luciana, quindi io rialzo le mani, che devo fare Luciana? Dove vado? Va bene. E Ruggero che famo? Lasciamo qua? No, ma vatti, dicevo io. Rugge, sì uomo, va finta di essere svenuto, Apri l'occhio e fa quello che ti dice Luciana. Che tante volte stavolta mira al lampadario, casomai ci piano due nell'addome. No, Lucia, però questa veramente, questa era una battuta, Pure te un pochino di ironia, dai. Nel giro di pochi minuti ci siamo ritrovati tutti nell'ufficio della dottoressa Leverani. C'erano i due guardiani, Bruno e Ruggero, la signorina Graziosi, senza cucuma, e la dottoressa Leverani in mutande, che a guardarla bene, con rispetto parlando, aveva un sederone molto piazzatissimo. Io ero la più tranquilla. Colaccio Luciana ci puntava addosso la pistola, ma Bruno ci tranquillizzava e ci diceva che lei aveva una mira pessima. Ma io la vedevo che era fuori di sé e capivo che il problema non eravamo noi. Lei ce l'aveva con la capa. Prima cosa ci ha fatto consegnare tutti i cellulari e poi ha cominciato a parlare, a raccontare, a farne tecare. La dottoressa Leverani, quella cercava di parlarci, ma a me, con rispetto parlando, ma pare che ha fatto peggio. Signora Colacci, io trovo eticamente deplorevole il mettere a repentaglio la salute del suo bambino. Ma che cosa crede che succederà nel suo immediato futuro, eh? Beh, se non lo so, glielo dico io. Carcere. Lei sta infrangendo la legge. Ma vuole per caso partorire a Rabibbia? Che cosa sono queste reazioni isteriche? Sia più controllata. Si rimbocchi le maniche, come fanno tanti italiani onesti, e si cerchi con caparbietà un nuovo lavoro. Forza. Adesso me la vuole dare questa benedetta pistola, per favore. Guardi, magari faccio anche una telefonatina e le trovo una cosetta al nero, momentaneamente, finché non si cerca qualcosa di nuovo, va bene? Per esempio, lei li sa spurgare i pozzi neri? No, lo chiedevo perché mio cognato proprio oggi mi diceva che gli serviva uno spurgo al volo, per quello. No, ma io so benissimo che il suo lavoro è differente, signora Colaci. Ma io ho grande rispetto per il suo lavoro, signora Colaci. Ma minimamente non la volevo offendere, signora Colaci. Allora. Allora, adesso ci penso, E vedrò cosa posso fare, è contenta. Però glielo faccio come favore personale. Perché lei a noi non serve più. No, perché non è che lei ha più diritti soltanto perché ha una pistola in mano, No, perché sennò poi voi parlate tanto di democrazia e poi vi fa delle regole da soli. Adesso lasciate perdere che mi trovo momentaneamente in mutande, ma... Signora Colacci, le difficoltà nella vita vanno affrontate con dignità. Beh, oh, sai che c'è? Che la parola dignità in bocca tua sono storta. Perché per colpa di gente come te qui funziona che i figli dell'avvocati fanno l'avvocati e i figli dei disoccupati fanno sempre disoccupati. Allora t'adatti e te fanno bene la vita lo stesso. La padrona di casa mia d'estate parte a metà luglio e torna a fine agosto, va in Sardegna. Io e Stefano invece le vacanze se famo a fine settembre perché costa di meno. L'altro anno in Calabria nella pensione ci stavamo soltanto noi due e una vecchia su una sedia a rotelle trascinata da una mordava scoglionata. Pure il cinema all'aperto aveva chiuso la settimana prima e quando che non pioveva ci andavamo al mare a spiaggia libera, solo che si metteva una mano nell'acqua e si gelava il sangue. Un giorno siamo andati persino a visitare Catanzaro, l'unici turisti della storia di quella città. La gente ci guardava in strano e pensavano gli si sarà fermata la macchina proprio qua. Infatti invece che i monumenti ci indicavano direttamente i meccanici. Però io e Stefano ci ridevamo sopra. Stavamo le due, stavamo bene. Settimana dopo tornavamo al lavoro, guardavamo le foto con gli amici, raccontavamo la vacanza. A noi ci piaceva pure così, perché un lavoro ce l'avevamo ancora. Ripetitivo, faticoso, mal retribuito, però almeno ci faceva sopravvivere. Era una vita de merda, sia ben chiaro. Però era quello che ci era capitato. E a noi ci stava bene pure così. Io rivoglio la vita mia! Rivoglio lo stipendio basso mio! Voglio stare qua dentro per tutta la vita, vabbè! Perché mi fiano non deve mancare niente! Voglio essere premiata perché metto al mondo una creatura! Non chiedo niente di più! Non la voglio il macchinone! Non ci vado in Sardegna! E i capelli mi tengo da sola! Ma ridatemi! È il lavoro mio! No, mamma! No, mamma! Te vedi da non venire fuori adesso, mamma, Che non è proprio il caso! No, mamma! No, mamma! Adesso no, mamma! Adesso no, mamma! No, mamma! No, mamma, no! No, mamma, no! No, mamma, no! No! No! No! Pronta centrale. Sono l'agente Fumagalli Raffaella. Dopo aver udito due colpi d'arma da fuoco, trovando il portone centrale aperto e la guardiola scoperta, sono penetrata all'interno della azienda Green Life Italia. Chiedo rinforzi immediati. Fate in fretta. Buon Dio, Manuel! Manuela! Mi ha fatto prendere un colpo! Ma te l'hanno detto di non seguirmi, Potrebbe essere pericoloso per te. E inoltre potresti essere un impedimento per me. Almeno togliti quegli zoccoloni che fa rumore terribile. Qui dobbiamo essere pronte a tutto, eh. Hai visto sotto che disastro? Tutti i vetri rotti, lampadari crollati, pezzi di frittata sparsi dappertutto. Guarda anche qui che casino. È tutto bagnato intera. C'è anche del sangue. Manuela, attenta che inciampi in quella parrucca incastrata nell'ascensore. Qui ne sta succedendo una grossa. Shh. Avviciniamoci pian pianino. Devono essere più di uno. Si sente un vociferare. Questi vedrai che si sta rubando qualche cosa. Ascolta. Tu adesso sta ferma qui e non ti muovere perché io devo fare irruzione, d'accordo? Che il buon Dio ti protegga. Ricorda, qualsiasi cosa succeda, io ti ho stimata e ti ho compresa, capito? Brava. Bravo. State va bene, Cristo santo, che qua se famo male per davvero, eh. Agente, cortesemente, arresti questa pazza. Non è vero! Luciano non è pazza, è solo un po' confusa. No! Io non so confusa. Io voglio il lavoro mio, se non la butto la pistola. Au, oh, poi mi spiegate che c'è sta fa un travestito negro qua fuori, eh. Negra la dici a tua madre, coglione! Zitti! Zitti! Zitti, non bisticciate! Signora! Se non getta l'arma a terra, io sarò costretta a fare fuoco! Ecco, brava gente, faccia il suo dovere, così la facciamo finita una volta per tutte! Ma state zitta, stronza! Non gerei un briciolo da pietà! Luciana! Luciana, ti sono da Ceretta! Da Ceretta, polizia! Butta per terra la pistola! Luciana! Da Ceretta, polizia! Luciana, che stai facendo, tesoro? Che stai facendo? Che c'è la creatura dentro? Luciana! Che stai facendo? Oddio, Teresa! Aiuto! Oddio, Teresa! Le acque. Oddio, non la faccio più. Non la faccio più. No, scusate, ma volete che a questa ora ci sforna il nino qui sulla moquette? Dico, ma chiamate un'ambulanza, no? Ha ragione la signorina negra! Chiamate un'ambulanza! Senti! Senti! Se non gente all'armatera, io non posso chiamare alcuna ambulanza! Tu sei una minaccia per la collettività. Ti esorto a darmi ascolto. Getta l'arma a terra. Io non la butto la pistola! Getta l'arma a terra, ti dico, o sarò costretta a fare fuoco! Non gettavo niente io! Getta l'arma, ti dico! Questo è l'ultimo avvertimento! No! Pronto centrale, Serve subito un'ambulanza alla Green Life Italia. Una ferita ad arma da fuoco. Serve anche un'ostetrica, credo, perché il soggetto ferito sta partorendo. Il bambino. Per favore. Aiutate il bambino. Aiutate il bambino. Per favore. Aiutate il bambino. Aiutate il bambino. Luciana tesoro, mi senti? Luciana tesoro, tieni gli occhi aperti, eh. Cerca di stare sveglia perché adesso devi spingere tesoro. Hai capito, Luciana? Deve spingere, Luciana, tesoro, spingi, Luciana, spingi! Teresa! Teresa! Il bambino si deve chiamare Mario. Mario, come mio padre, come mio padre. Hai capito, Teresa? Ci pensi tu, Teresa? Comprometti, Teresa? Ci pensi tu? D'accordo, Luciano, tesoro, te lo prometto, ci penso io. Pronto adesso, tieni gli occhi aperti, capito, Luciano? Hai capito, tesoro? Perché devi spingere, Luciano! Spingi, Luciano! Spingi, Luciano! Spingi! Dai che viene fuori! Dai! Dai! Eccolo! Eccolo! Eccolo! Eccolo qua! Più. Metta d'accordo, Mario! Scappa veloce verso l'uscita, che poi mamma tra poco arriva, eh! E se non ci dovessimo vedere là fuori? Ricordati che non devi mai fare quello che ha fatto mamma. Mamma ha sbagliato, Mario. Mamma ha sopportato per 33 anni. Te invece reagisci subito, amore mio. Che chi se fa pecora al lupo se lo magna. Non gliela dà vinta, Mario. Stagli sempre a dire perché? Come mai? Stagli col fiato sul collo. Non gli va passa niente, dia sempre di no. E se ti danno lo schiaffo, ritaglielo subito. Reagisci, Mario. Amore mio. Reagisci. Il piccolo Mario è nato che pesava quasi 3 chili, però non ha versato neanche una lacrima. Aveva un'espressione orgogliosa e incazzosa. E come prima cosa quello ha fatto la pipì addosso a un poliziotto. Luciana, che stavano portando via con l'ambulanza, ci ha sussurrato: brava mamma! Poi ha avuto un sussurro e ha chiuso gli occhi. Mario invece ce l'aveva aperti gli occhi e ci ha guardato a tutti come se già ci conosceva. Metteva soggezione, sembrava un piccolo guerriero silenzioso. Ma lui aveva già capito tutto, e quello che è giusto e quello che no. Per carità, Io non ne capisco niente di giustizia, di legge. Però, visto che mi avete chiamato a fare questa intervista, vedete cosa ne penso. Io penso che ho paura che l'esasperazione della gente arriverà a un punto tale che gli farà fare cose molto brutte, come la povera Luciana. Non era pazza Luciana, eh? No. No. Era solo stanca. Nostro Signore ha detto che gli ultimi saranno i primi. Non ha detto di preciso quando.